Buonasera a Radio Città del Capo, Radio Metropolitana, in compagnia di 451 frammenti sonori. Nel frattempo il mio compagno di viaggio se la ride, perché te la ride? Perché hai una voce un po' in cantina, quasi uno scantinato, sembra che parli. Lo sai che all'inizio le microfonazioni sono un po', come dire, ti devi adattare un po' anche al clima, anche al vento che c'è, perché dobbiamo raccontare agli ascoltatori che abbiamo il vento dentro la radio, no? Sì, ma tra l'altro io odio quest'aria condizionata, l'aria condizionata con la per forza mettere, ma ti fa bene poi alla fine. Adesso mi senti meglio, cara. Adesso ti sento meglio. Cosa vedi? C'era una chewing gum attaccata, c'era una chewing gum, lo sai che amo le gomme, soprattutto quelle del ponte, quelle del ponte di Brooklyn. No, il ponte, vabbè. Va bene, 451 frammenti sonori, l'avrete capito, è ritornata in diretta dopo una domenica di assenza, probabilmente anche a causa di qualche cosa, di un evento. Sì, vabbè, dobbiamo per forza parlare di quell'evento. No. Un evento, gli eventi che ci sono dentro la radio, per l'aria condizionata, insomma, che mi importa veramente a non tollerarti più, caro, come, hai ragione. Compagno di viaggio. Hai ragione. In effetti sarà probabilmente l'ultima trasmissione questa sera di 451. Nel frattempo vedremo, insomma, di così cullarvi dentro il suono del silenzio. Questa sera trasmissione particolare, perché abbiamo degli ospiti in diretta, degli ospiti che appunto lavorano in un certo qual modo sul silenzio. Chiaramente l'omaggio è quantomeno dovuto a John Cage, infatti il festival che si sta tenendo da un po' di tempo è proprio dedicato a Cage, qua a Bologna, 100 Cage, e la manifestazione di martedì curata da anzi la mettiamo quasi quasi in diretta, così ce l'abbiamo anche, ma sì, dai, subito dai, così andiamo, rompiamo le righe. Rita Curreddu, eccola qua in diretta. Batti un colpo se ci sei, Rita. Ecco, ha battuto. buonasera Lauro Lisse, la performer che insieme a Rita Curreddu e Michele Braga, Francesca Burzacchini e Marta Ciappina cureranno la serata di martedì al Museo della Musica. Martedì, appunto, quanti ne abbiamo? 10. Cureranno appunto la serata dedicata in un certo qual modo a Cage, ma in una versione assolutamente originale della faccenda. Per questo sono anche qua, proprio per così spiegarci cosa faranno martedì e come appunto sonorizzare il silenzio o gli spazi poi dedicati appunto alla pausa, al momento paradossale dell'assenza della musica, che poi in realtà non è tale, ma appunto un momento riflessivo legato al silenzio, al silenzio suono. E chiediamo subito a... Sì, direi che possiamo partire subito. Ricordiamo anche 21:30, si chiama l'iniziativa Everybody Needs a Place to Think, giusto? Giusto, ci dai l'assenso con il nostro inglese meraviglioso. Bene. Tra parentesi, da qui altrove. Da qui altrove. Perché infatti. Da qui altrove? Iniziamo subito. Bravo, bella domanda. Visto? Subito, iniziamo Marzulli. Subito. Iniziamo subito da qui altrove perché in realtà questa cosa che succederà il 10 luglio al Museo della Musica inizia da un'altra parte. Inizia in un lavoro fatto l'anno scorso, nel 2011, che è appunto Everybody Needs a Place to Think, ed è sono sei installazioni diffuse nella città di Bologna all'interno di sei diverse biblioteche, e sono all'interno di questi spazi dei luoghi per ascoltare gli alberi monumentali presenti nella città di Bologna. E questo lavoro nasce appunto come progetto finalizzato alla valorizzazione degli alberi monumentali. E realizzando questo lavoro, assieme a Michele Braga, ho registrato i suoni di sei diversi alberi. E qua e lì è iniziato tutto, cioè è iniziato appunto questa dimensione di ascolto. Sì, spiegaci bene, insomma, perché insomma è abbastanza particolare, insomma, sonorizzare tra virgolette gli alberi, no? Siete partiti da quell'idea, appunto? Dall'idea appunto di dare presenza a queste presenze, cioè che sono delle presenze abbastanza tangibili e concrete, che però allo stesso modo passano altrettanto inosservate. E allora forse ascoltare queste presenze era un modo quasi di dialogo, no? Dialogo. Nello stesso silenzio con cui un albero vive la città, tu ti poni per renderti conto che quell'albero vive la città. Però poi da qua si è aperto un mondo molto, molto più, ancora molto, cioè ancora più interessante di questo, no? Che è un appunto questo luogo di ascolto che nasce sotto un albero, ma anche in un angolo di città, in cui semplicemente si sta zitti e si cerca di andare a cogliere, di andare ad ascoltare delle sonorità quasi impercettibili, ma non tanto impercettibili perché non sono udibili, ma impercettibili perché non ci si fa caso. Per cui quando si passeggia semplicemente per la città non si ascolta il suono della città, però se ci si ferma ad ascoltare un albero, paradossalmente magari non si sente nessun suono di un albero, perché logicamente un albero non parla, no? Però senti che c'è un suono della città che avvolge quell'albero che esiste lì, e che assieme al banale rumore delle foglie, degli uccellini e quant'altro, comunque costruisce attorno a sé un ambiente sonoro infinito. Quindi siete partiti da questo lavoro per poi arrivare, appunto, anzi arriverete martedì al Museo della Musica, appunto in Strada Maggiore, e lì appunto come si sviluppa l'idea, partendo dagli alberi? Là si sviluppa, cioè lo sviluppo è quasi, cioè è molto semplice, quasi, non so, non direi banale, ma forse sì, perché fare un lavoro sul silenzio dentro il Museo della Musica è stata, cioè, non è stata una scelta casuale, no? E portare dentro questo spazio che conserva degli strumenti musicali muti, delle sonorità che sono sonorità urbane e naturali, ma che sono le sonorità che avvolgono quel palazzo e le persone che ci entreranno dentro e noi stessi, è stata un po' appunto, cioè cercare come di eliminare quelle mura e portarci dentro questi suoni. Logicamente là questi suoni diventano qualcos'altro, perché diventano dei suoni che a partire dagli alberi diventano i suoni delle stanze, per cui ogni stanza avrà il suo suono e sarà un percorso sonoro, un percorso sonoro in silenzio, perché a guidare questo percorso saranno delle performer. E appunto qui c'è Laura Ulisse, che è una delle tre, assieme a Francesca Burzacchini e Marta Ciappina, che... Se ho sbagliato prima con l'accento. Io invece l'ho imparato, per cui... Beh, potevate mettere sulla carta. E non c'è nel... che io appunto ho voluto coinvolgere perché mi sembrava importante che ci fosse appunto in questa assenza anche una presenza, e loro saranno interpreti con la presenza di questa assenza. Ecco, infatti, Laura, in cosa consisterà, diciamo, il vostro lavoro di interazione rispetto a quello che hanno sviluppato a livello sonoro, a livello ambientale? Sì, come diceva prima Rita, è un tentativo appunto di portare dentro lo spazio del museo quello che è che è stato il vivere, l'ascolto dell'urbanità e del silenzio, sia del suono degli alberi che di tutto l'ambiente che circondava diciamo, la presenza silenziosa dell'albero nella città. Per cui il portare tutti questi elementi all'interno di un museo, di uno spazio come quello del museo, che è contenitore di silenzio fondamentalmente. E, prima riflettevamo anche sul discorso del suono del silenzio e il silenzio del corpo, cioè quindi la nostra presenza fondamentalmente sarà una presenza non presenza, nel senso che vorremmo cercare di vivere e abitare questo spazio contenitore e con una presenza particolarmente delicata, direi quasi da fantasma, nel senso che ci saremo ma non ci saremo, entreremo e usciremo dai vari spazi del museo e con una presenza, diciamo appunto, di corpo silenzioso, per cui fondamentalmente noi siamo tutt'uno con gli altri elementi che vanno a riempire, a far risuonare questo silenzio all'interno delle stanze del museo. Perfetto. Sì, direi che abbiamo introdotto le due, l'artista appunto, come ti potremmo considerare? Un artista più visuale, concettuale? Ma no. Artista e basta. Artista, ma neanche artista. Ma neanche artista. Andiamo oltre. Invece con Laura Ulisse, insomma, prendiamo la danzatrice, facciamo un performance. dopo tanto silenzio, come dire, il silenzio porta al paradosso, no? L'assenza di musica, quindi è tutto il suono che circonda quello che non è musicale, quello che non è considerato inizialmente musicale, poi da Satie e da Cage inizia invece a essere organizzato dentro la composizione, oppure preso proprio dall'esterno, in effetti quello che ci spiegavate è già dentro i lavori appunto di Cage, e anche addirittura preconizzati da Satie, quando appunto quel tentativo di annullare appunto il dato musicale per far risaltare il dato sonoro crea appunto mondi veramente altri, sia in termini appunto di estetici che anche in termini anche proprio sociali, di intendere insomma il suono e quello che comporta anche il suono in una maniera differente. Sì, io direi di partire però a livello sonoro, perché sennò no è proprio quello, anche se non è una trasmissione radio. E partiamo con facciamo un omaggio, diciamo, a John Cage, dato che comunque la vostra iniziativa è inserita dentro 100 Cage, dunque è anche un omaggio al grande John Cage. Abbiamo pensato di inserire una composizione splendida che è stata realizzata da John Cage nel 1975, a quale andiamo a ritrovare attraverso la composizione e l'interpretazione di Stephen Drury al pianoforte, In the Landscape, appunto composizione del 75, in una edizione del 1995 appunto di Stephen Drury. Thank you. Ecco, abbiamo ascoltato questo ottimo lavoro, devo dire a livello sonoro un ottimo risultato, l'avevamo già ovviamente sentito a casa, ma devo dire che anche l'effetto in studio è molto positivo. Poi si sentiva questa bella motoretta alla fine. Questo era uno degli alberi, che è stato appunto microfonato. Bagolaro, diciamo bene, Bagolaro? Il bagolaro. E che cos'è il bagolaro? Infatti me lo chiedevo anch'io. Bagolaro è un albero diffusissimo a Bologna. Ah sì? Sì sì, c'è ovunque, in tutti i viali. E comunque questo... Dove eravate infatti? Questo qua? È in piazza Carducci, sul monumento funebre per Carducci, l'albero proprio che si riversa sopra la scalinata, diciamo. Però poi anche lungo i viali è pieno, è un albero, il bagolario è un albero proprio molto molto solido, quasi immortale, duraturo. Il bagolaro, bene, adesso buona sapere, appena incontriamo un bagolaro, qualcuno, facciamo anche una bella figura, che non sanno che è un bagolaro. Dunque. Sì, magari abbiamo fatto la pessima figura perché non lo sapevamo prima. Sì, vabbè, ma quello va bene, adesso lo sappiamo, insomma, siamo tutti un po' ignoranti. No? Poi adesso sapete anche che suono fa il bagolaro. Infatti, no, molto molto bello comunque effettivamente il lavoro a livello di sonorizzazione, anche perché c'è un'interazione, non è soltanto la microfonazione del suono, ma c'è anche comunque un intervento elettronico dietro importante. Ecco, una cosa che ti volevo chiedere, mi rivolgo a Rita Correddu, c'è ovviamente saltata agli occhi in maniera chiara che tutti i sei alberi che noi abbiamo ascoltato, no? Cioè che abbiamo in sottofondo ancora. Che abbiamo adesso? Adesso abbiamo il boschetto. Il boschetto. È un boschetto. Insieme di alberi, forse, sì. Abbiamo notato ovviamente che il minutaggio è rigorosamente 4 minuti e 33 per ogni registrazione. Ti lancio ovviamente una. Quello è un collegamento a Cage, immagino. Perché? Chissà perché, no, però molti non è detto che lo sappiano. L'avete chiaramente fatto, non l'avete fatto apposta, è casuale la cosa. Molto casuale. Stranamente è andata proprio 4 minuti. Allora, cioè le tracce si concludevano tutte a 4:33. In maniera naturale. In maniera naturale. Insomma, la magia di Cage. No, no, a parte ovviamente questo. In realtà è il processo inverso. In maniera naturale noi abbiamo passato ore, quasi giornate, sotto gli alberi a campionare le sonorità dell'albero, dell'ambiente, di tutto ciò che poteva accadere. E il riascolto di queste ore di alberi alla fine ha fatto scaturire una necessità, ovvero trovare un tempo in cui poter concentrare, cioè, veramente il senso di questo ascoltare gli alberi. E alla fine quel tempo è un tempo che già esiste, che... è indiscutibilmente, secondo me, il tempo dell'ascolto, ma un tempo di un ascolto diverso, no? Cioè che proprio presuppone un accettare tutto ciò che può accadere. Ed è 4 minuti e 33, per cui alla fine quelle ore di registrazione sono diventate una condensazione di tutto ciò che è accaduto e che è diventato un 4 minuti e 33 di albero. Suono in generale, suono, riflessione. Di silenzio di albero. Questo può avere anche un senso proprio con il titolo, no? Che è in inglese, però la traduzione è... Esatto, ognuno ha bisogno di uno spazio... per pensare. È una frase che avevo letto così passeggiando lungo il Tamigi a Londra su una targhetta di metallo su una panchina, E in effetti anche questa, cioè una frase banale ma vera, come... Tra l'altro c'è in cartolina poi nella presentazione. Esatto, così sveliamo anche il perché. Ma infatti volevamo proprio chiederti come più o meno organizzerete il museo, perché lo state insomma un po' come preparare gli strumenti preparati, esatto. Il famoso piano preparato di Cage, voi preparate un museo. Esatto, sarà un museo preparato, assolutamente sì, è proprio questo uno dei concetti sui quali abbiamo lavorato. E anche lì la preparazione avverrà proprio portando delle leggere modifiche, ad esempio accendere o spegnere alcune luci, oltre appunto alla modifica dell'introdurre dei suoni, e poi anche a quella di introdurre delle guide, ma delle guide appunto che non sono delle persone che diciamo guidano ad una visita del museo, ad una visita standard, perché di fatto probabilmente in una stanza buia ci sarà, non dico poco da vedere, ma sicuramente una visione che potrà essere illustrata diversamente. E questo sarà appunto anche ruolo delle performer che fanno parte anche loro della preparazione del museo per questa esperienza che sarà concentrata in un'ora e mezza, che sarà l'esperienza di uno spazio in continua trasformazione, dove non ci sarà assolutamente niente di statico e di stabile, per cui è un invito proprio a viverla semplicemente per quello che accadrà. Ma quindi le performer saranno più guide o creeranno movimento dentro lo spazio? Allora, più che guide, definirei quindi le persone che abitano e vivono questo spazio come tracciatrici di percorsi, ossia cioè noi con la nostra presenza cercheremo di far risuonare l'atmosfera generale della situazione che ci sarà all'interno del museo, e tracciando dei percorsi, creando delle immagini, delle interazioni, per cui cioè in questo senso possiamo essere definite come delle guide, però non sarà un... cioè in realtà ci si può anche perdere attraverso le guide, cioè comunque tracceremo dei percorsi che non necessariamente saranno dei percorsi di una classica visita all'interno del museo, cioè le persone che vivranno questa esperienza lì dentro, che verranno insomma a partecipare, che verranno coinvolte, potranno in questa diciamo ora e mezzo, e potranno spostarsi all'interno dei vari spazi, potranno sedersi, potranno fermarsi, potranno cioè vivere in maniera completa diciamo la situazione che verrà creata, e in questo senso le performer saranno quindi appunto non delle guide ma delle presenze che faranno un po' da eco, da cassa di risonanza alla situazione in generale, per cui ecco parlerei più che di percorsi tracciati piuttosto che immagini, piuttosto che interazioni con la situazione in generale, più che guide. Andiamo ancora ad ascoltare. Sì, io direi di ascoltare un altro albero. Io avrei una preferenza, adesso mandiamo quella, le impongo io. Perché è vicino a casa mia, dunque. Thank you. Bene, abbiamo ascoltato e abbiamo ancora in sottofondo Silenzio di Michele Braga, che è un'altra composizione che appartiene, diciamo, alla soundtrack generale del lavoro appunto complessivo che si terrà appunto martedì, della installazione performativa, non so, fatemi passare insomma il termine, e martedì, benissimo in sottofondo, vabbè, ci ho provato, e martedì 10, quindi a Strada Maggiore, presso il Museo della Musica. E appunto mi veniva e ci veniva in mente appunto di chiedervi come ha lavorato, appunto come avete lavorato, come ha lavorato Rita con Michele Braga appunto per quanto riguarda la sonorizzazione. Prima già accennavi su Alberi, ti chiedevamo appunto in relazione al lavoro di martedì. Certo, il lavoro di Michele Braga è stato sicuramente fondamentale nella realizzazione sia del progetto, del lavoro iniziale dei 433 degli alberi, che poi in questa propagazione che sarà il Museo della Musica. Perché lui è un musicista, è un bravissimo, anche è molto sensibile tecnico, e per cui nel momento in cui, cioè, insieme abbiamo proprio veramente concretamente lavorato alla realizzazione di un'idea, perché, cioè, l'ascolto di un albero credo che sia una cosa veramente ideale. Sonorizzare un museo, insomma. È anche quello, esatto. Sono veramente delle cose, cioè proprio delle immagini, no? Che concretizzare, cioè il passaggio alla concretizzazione di quell'immagine, cioè sembra quasi appartenere ad un altro livello di realtà, però invece con personaggi tipo Michele Braga questo è possibile, per cui un lavoro appunto intanto di una scelta di strumentazioni che hanno una loro sensibilità per le quali è possibile raccogliere l'inudibile, e un lavoro registrazione anche su campo, esatto, assolutamente, sì, proprio registrazione, cioè microfonare un albero piuttosto che io purtroppo non ho una grandissima, cioè un vocabolario tecnico. Va bene, field recording, va bene, ma non. Però non ho visto delle registrazioni su campo. Ecco. Ma poi, insomma, dopo la registrazione. E dopo quello c'è stato appunto un lavoro di riascolto e di selezione delle sonorità che sono state poi messe insieme, per cui si è scelto un tappeto sonoro che fosse quello appunto reale, no? Come dire, la terra nelle quali si radicano questi alberi. Questo tappeto sonoro che facesse appunto da sfondo poi a dei suoni più particolari, che poi sono i suoni e i colori che noi abbiamo visto in ognuno di questi alberi. Questo per le singole tracce degli alberi. Dentro il Museo della Musica il lavoro è stato ancora più complesso e sottile, perché c'è stato una scelta a partire sempre da quegli stessi suoni di solo alcune sonorità che sono state poi scelte perché vibrassero in alcune stanze. Ad esempio Silenzio, questa che abbiamo ancora ad esempio sottofondo. Silenzio, vedi qua, mi fai svelare. Ma svegliamo tanto. Così tanto la curiosità poi verrà, perché di fatto lo sentono e basta, però poi lo vogliono vivere, no? Diciamo che Silenzio sarà alla fine. Ah, ecco, allora mia mente è svelato. È la fine, esatto. La finale. Quindi nell'ultima stanza e poi in conclusione dell'intera sonorizzazione del museo. Però ecco, secondo me in questo lavoro proprio dentro il Museo della Musica rimane molto interessante questo lavoro fatto proprio su ogni stanza di calibrazione, di sonorità uniche che poi di fatto vanno poi a sovrapporsi tra di loro e quindi vanno realmente a creare un ambiente sonoro, per cui cioè, è un po' come quando si passeggia in un bosco, no? Se si fa caso si sentono i rumori dei propri passi, ma poi anche, cioè, non so, il vento, cioè, ci sono tanti livelli di... E questo sarà realmente udibile dentro il Museo della Musica grazie appunto a questa soluzione. Che... Una riflessione sul suono, quello che significa, sì. No? Esatto. Rita, ma così, visto che siamo quasi in chiusura, no? Ma volevamo chiederti, cioè, dalla tua esperienza poi di fatto come d'artista completa, come abbiamo detto prima, cioè, da dove viene? Qual è stato il percorso che ti ha portato fino agli alberi e adesso sonorizzare appunto il Museo della Musica? Ma è un percorso, vabbè, sicuramente... direi iniziato con i soliti studi, DAMS, eccetera, ma poi di fatto che si è sviluppato in una ricerca che nasce sempre a partire dal luogo in cui mi trovo e da quello che il luogo mi può dare, mi può suggerire, cioè... Diciamo che cerco sempre di fare il meno possibile, è un po' questo quello che... Vabbè, è una teoria direi giusta, eh? Sei d'accordo? Anche noi. Anche noi cerchiamo di fare il meno possibile. No, mi piace, è un po' una sfida, perché mi piace proprio la possibilità che ciò che c'è emerga da solo, per cui ha senso mettersi da parte, senso... ascoltare, ha senso magari sottolineare semplicemente alcuni aspetti piuttosto che altri, e sicuramente in tutto questo non sono legata a niente di specifico, per cui non sono legata a mezzi tipo fotografia, suono, diciamo che li uso in questo cercare di fare il meno possibile, cerco di sfruttare anche un po' tutto ciò che ho a disposizione, che secondo me, a seconda, cioè, nella situazione in cui mi trovo, può dare meglio il senso di quello che ha senso, cioè che vorrei esprimere, diciamolo così. No, è molto interessante questo discorso di sfruttare la situazione, lo spazio poi, no? Esatto, ma diciamo che poi è anche, cioè, una sorta di metodo che anche involontariamente comunque si ripete, cioè è quello. Al Museo della Musica sarà così. Dunque venite tutti, mi raccomando, tutti. Anche tu. Io non ci vengo. Soprattutto tu. No. Perché sei importante. A questo punto, vabbè, salutiamo i nostri ospiti che sono stati gentilissimi a essere presenti, come te d'altronde, che sei sempre presente, quasi. Sì, non ringraziare me. Grazie a loro. Io sto morendo dal caldo perché ho voluto spegnere sto condizionatore, sto facendo la sauna. Bene, allora mandiamo un ultimo brano, sì, che verrà un po' sfumato. Quindi ricordiamo per martedì appunto 10 al Museo della Musica, in Strada Maggiore, appunto la performance, qua mi scappa sempre la cartolina di mano, forse un segnale. No, te l'ho presa io proprio. Per quello, sì. E appunto allestimento, diciamo, vario, installativo, sonoro e performativo appunto in generale di Rita Corredo insieme a Michele Braga, appunto ci saranno presenti, performeranno, si dice così, si dice. Sì, va bene. appunto Francesca Burzacchini, Marta Ciappina e Lauro Lisse, appunto vi invitiamo dopo domani, appunto questa sonorizzazione a questo vivere in museo in maniera differente. Bene. Un saluto, grazie, un saluto, grazie. E buona serata. Noi mandiamo l'ultimo brano, sì, un altro pezzo che un minuto e mezzo mi sa che riusciremo a sentire, no, tanto sì. Appunto per dare un altro esempio di quello che troverete martedì. Espiro, appunto preso da sempre le sonorizzazioni di Michele Braga. Noi rientriamo dopo il GR di Radio Popolare Network, dunque intorno all'1-10, a dopo.